Fanfilò è un gruppo di ricerca fatto da ricercatori di filosofia e di scienze dell'educazione dell'Università di Bologna, che ha portato avanti da più di un anno un progetto riguardo la filosofia con i bambini. Qual è l'idea di fondo che ha motivato questo progetto? L'idea di fondo è che la filosofia praticata e quindi non insegnata come si fa nelle scuole superiori o anche all'università, ma praticata all'interno di un gruppo di bambini come se fosse un seminario di ricerca, ha diversi aspetti positivi. Un aspetto positivo ha a che fare con i contenuti della filosofia, col fatto che i bambini possono discutere attraverso un facilitatore, un ambiente protetto, di questioni che hanno una certa profondità e che loro stessi, per nostra esperienza, si pongono già quasi naturalmente, quindi questioni esistenziali, questioni che hanno a che fare con la natura del mondo, di tipo metafisico anche, o etiche o morali. Il secondo aspetto positivo è il fatto che questo tipo di esercizio di gruppo aiuta a ragionare, a confrontarsi con gli altri, a ascoltare posizioni diverse dalla propria e eventualmente a cambiare idea o a difendere le proprie nell'ambito di una ricerca comune, di una risposta a una domanda che interessa il gruppo. Hai menzionato prima la questione dell'insegnamento della filosofia all'università. Cos'è che secondo te non funziona e che provate a fare invece con i bambini nel progetto di Farfilò? Io non ho detto che non funziona, innanzitutto, ho detto che è diverso. In ogni caso, in questo caso, penso anche però che ci siano delle cose che non funzionano. Cioè, l'insegnamento frontale può avere un ruolo quando si tratta appunto di presentare alcune idee, alcune teorie, che soprattutto in ambito universitario è necessario fare, però se ci si limita a questo tipo di insegnamento si rischia di creare una fruizione passiva di questi contenuti e credo che questo sia negativo dappertutto, non solo in filosofia, ma nel caso della filosofia forse lo è di più, perché è parte integrante dell'educazione filosofica il fatto di essere in grado di rielaborare criticamente le teorie, metterle in discussione, trovarne i punti deboli, i punti forti o arricchirle attraverso un processo argomentativo e creativo. Spesso la filosofia è impopolare e l'opinione comune la considera inutile o difficile da comprendere e mi chiedevo se con i bambini è più semplice, che risposta sia da parte dei più piccoli a questo tipo di ricerca. Sì, io non so quanto poi sia vero empiricamente che è impopolare, nel senso che nel lavoro che abbiamo fatto finora presentandoci alle famiglie, alle scuole, abbiamo sempre trovato le porte aperte, un grande entusiasmo da parte degli adulti, quindi cioè insegnanti e famiglie, magari è un target molto limitato rispetto a tutta la società. Per quanto riguarda i bambini è piuttosto naturale, cioè non è che è popolare, è semplicemente naturale, perché abbiamo constatato nell'esperienza che abbiamo fatto quest'anno nelle scuole, in diverse scuole di diverso grado, diverse classi delle elementari e delle medie, che i bambini si pongono naturalmente delle domande che rientrano nelle classiche domande filosofiche. In particolare abbiamo notato che sono le domande esistenziali sul senso della vita, sulla morte, ma anche di tipo un più cosmologico, perché siamo qui, dove è iniziato tutto. Per cui per loro è naturale cercare delle risposte a queste domande che sono loro. La seconda cosa che abbiamo notato è che se vengono esposti a domande filosofiche anche di altro tipo, ad esempio sullo scetticismo, sulla metafisica, la natura delle cose, i paradossi, per loro è assolutamente naturale discuterne, anzi sono molto curiosi e quindi niente, abbiamo trovato un terreno fertilissimo per praticare la filosofia. La spiegazione non la sappiamo, cioè nel senso che non so perché c'è questo tipo di naturalezza a questi gradi e dopo non c'è. Un'ipotesi è che la struttura del modo in cui dell'educazione, cioè di come i bambini, poi i ragazzi, poi gli adulti imparano nei diversi corsi di studio, fa scemare un po' questo tipo di interesse o curiosità. Quindi si pone un freno alla curiosità poi. Può essere, o comunque crea altre preoccupazioni, o io quello che noto spesso all'università è che le persone hanno paura di prendere la parola o di dire la loro, e questo è un grandissimo freno che crea tutta una serie di limiti all'apprendimento e anche alla creatività. Farfilò, come ho detto, è un progetto universitario, adesso ha avuto un finanziamento per 2 anni, stiamo facendo ricerca ricerca su queste metodologie per fare pratica filosofica con l'infanzia e l'adolescenza, contestualmente a questo progetto accademico che vorrà sfociare poi in un master, che sarà il primo in Italia sulle pratiche filosofiche con l'infanzia, stiamo anche sostenendo la nascita di una startup, cioè di un'impresa fatta da giovani ricercatori, che offrirà alla scuola, ma anche alle famiglie fuori dalla scuola, dei progetti, dei programmi, dei laboratori, dei corsi di filosofia con bambini e ragazzi, perché pensiamo che questo sia un modo per impiegare le alte competenze che vengono fuori dall'università, dal percorso di filosofia e di scienze dell'educazione, per creare lavoro sul territorio avviando delle buone pratiche anche, perché secondo noi queste pratiche della filosofia hanno delle conseguenze positive poi dopo anche sulla comunità. La startup è stata selezionata adesso in un percorso di incubazione che sta facendo Unibo, selezionando da 400 progetti arrivando fino a 70, per ora siamo arrivati a 2 gradi di selezione e ne sono rimasti 30, fra cui c'è la startup di filosofia che si chiama Filò. Nella startup ci sono dottorandi e assegnisti che, se continueranno a lavorare come hanno lavorato, avranno poi dopo un finanziamento a fondo perduto dall'università e anche un'opportunità di incontrare finanziatori e una sede a Macube che gli aiuterà poi a portare avanti e a far crescere il progetto imprenditoriale.